m'accorgo già da come parli adesso della libertà con l'aria di chi ha perso. Basterà parlare di noi due, trattenerti qui non ha più senso senza te. Non puoi più nasconderti solo per restare ancora semplicemente insieme. Trattenerti qui non ha più senso senza te. Non puoi più nasconderti solo per restare ancora semplicemente insieme. Non puoi più illuderti solo per restare ancora semplicemente insieme.